Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, qui a Smart City parliamo molto spesso di informatizzazione della pubblica amministrazione come uno degli ingredienti fondamentali della Smart City. Si parla non a caso di Smart Government. E uno dei temi forti è quello della concentrazione, di come concentrare le tante informazioni, per esempio gestite dalle varie pubbliche amministrazioni locali. E c'è un progetto, il progetto JIT, che fa esattamente questo. Ne parliamo questa sera, ma ci aiuta a parlarne Chiara Albicocco, che ha scoperto questo progetto qualche giorno fa a SMAU. Ciao Chiara. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Sì, sono stata a SMAU, dove appunto si trattava di questi temi legati alle Smart City. Vi ho portato l'ospite. Vai. Abbiamo qui con noi Carlo Falcinelli. Intanto buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Lei è coordinatore tecnico e responsabile del progetto JIT che Maurizio ha appena citato. Lei è responsabile della società pubblica della Regione Umbria che ha, diciamo, fondato questo progetto. Direi doveroso iniziare con la definizione. Che cos'è? Guardi, l'acronimo JIT vuol dire gestione intersettoriale del territorio ed è un progetto rivolto agli enti locali attraverso due processi obiettivo essenziali. Il primo, quello di poter interloquire con la grande mole di dati che l'amministrazione pubblica negli anni ha messo a disposizione attraverso i passaggi normativi e operativi. Il secondo, attuare quella formula un po' idealizzata da sempre dentro alle amministrazioni del lavoro di gruppo tra uffici, quindi la intersettorialità tra uffici, per la gestione appunto del territorio in maniera combinata Stato e enti locali. Semplificandola un po', possiamo dire che è una piattaforma, un grande database in cui vengono messi tanti dati, dal catasto ai dati dell'Agenzia delle Entrate del territorio, e in qualche modo questi dati possono essere incrociati e valutati in vari enti anche. E anche incrociati fra loro probabilmente, no? Sì, diciamo che mettere insieme le informazioni dandogli un senso logico e un senso amministrativo, che è la cosa più importante, perché sennò, detto così, sembrano calderoni. Ecco, ci fa un esempio? Guardi, molto semplicemente, se io prendo la materia di gestione di un patrimonio immobiliare, riguarda una serie di soggetti. Immaginiamo il catasto al suo nascere come terreno, il comune al suo nascere come patrimonio immobiliare su quel terreno, il catasto di nuovo come registrazione anagrafica, grafica come valore patrimoniale vendibile e cedibile o anche usufruibile, il comune di nuovo per gli utilizzi e l'Agenzia delle Entrate per la fiscalità. Adesso io, semplificando, ho fatto degli esempi di come un qualcosa che nasce partendo da un terreno, diventando un immobile, può essere oggetto di interesse di diverse amministrazioni. In più poi mettiamo i servizi Enel, luce, gas e quant'altro. Invece di moltiplicare tutte le volte i dati, lei dice c'è un centro di riferimento. Che li riunisce. Diciamo che l'obiettivo è di organizzare questi dati temporalmente perché si faccia meno confusione e dall'altra parte individuarli topologicamente e geograficamente al fine di poterli individuare. Ecco, quello che però vorrei capire è questo. Si parla continuamente della necessità di mettere in piedi nuovi sistemi per consentire questo incrocio di dati, sì, e questa gestione di sistema di tutti i dati che gestiscono gli enti locali. Ma allora questa roba però scopriamo che esiste o sbaglio? E quanti la usano però a questo punto, le chiedo? Quanti sono i comuni coinvolti? Allora, guardi, attualmente i comuni che utilizzano il progetto sono 263 partecipanti a questo progetto, quindi tra cui il comune leader e il comune di Milano, che è uno degli ideatori insieme a me come Regione Umbria. Attualmente ci sono dei comuni che ne fanno diversissimi usi. Uno per tutti è il comune di Monza, che ne fa addirittura il portale per i servizi al cittadino. Ecco, sì, però ci scusi un'osservazione. Ci ha detto circa 300 comuni su 8.000 comuni italiani. Perché non viene utilizzato, essendo uno strumento che già c'è, una piattaforma che già c'è ed è ovviamente gratuita? Perché non viene utilizzato e soprattutto perché appunto se ne stanno facendo tanti di questi sistemi, diciamo così. Allora, guardi, come si dice in genere, la ringrazio per la domanda. In pratica il problema è questo: il JIT per funzionare ha bisogno che l'amministrazione si impegni, si organizzi, si formi e si ristrutturi. Quando io vado a offrire il GIT ad un comune, una delle prime cose che dico è: signori, dovete fare un lavoro, un solo sacrificio, un solo costo, organizzarvi e ristrutturarvi perché i processi siano più semplici, più trasparenti e si lavori tra uffici. Insomma, è che il problema di questi software è che da soli non risolvono i problemi. Bravo, ci siamo risolvono i problemi se poi c'è un adattamento a livello di macchina organizzativa, questo è il punto. Sentivo dire: ma no, ma a me questo software non mi risponde alle esigenze. Oggi mi sento dire: non siamo organizzati per poterlo utilizzare. Vabbè, grazie Falcinelli, la ringraziamo per questo tono, insomma, non proprio ottimistico, ma speriamo di risentirci in altre occasioni. Grazie a voi, signori. Appuntamento a domani.